Quello che non ho è la fiamma sul cappello, quello che non ho è la croce, il tuo anello, il mantello intriso del sangue della gente. Non ho è la mente sotto controllo, quello che non ho è la politica corrotta, quello che non ho sono giacca e cravatta strette al collo, come un guinzaglio non abbaio, non ho il tuo manganello. Quello che non ho vi rappresenta, quello che non ho è il vostro conto in banca, con cui pagate peccati e processi affogati in abissi d'acqua santa. Quello che non ho sono le orecchie, gli occhi e la bocca chiuse col lucchetto, la mala vita all'habitat perfetto. Quello che non ho è il vostro rispetto. Quello che non ho è quello che non voglio. Quello che non voglio è quello che non avrò. Quello che non ho è quello che non voglio. Quello che non voglio è quello che non avrò. Quello che non ho è quello che non voglio. Quello che non voglio è quello che non avrò. Quello che non ho è quello che non voglio. Quello che non voglio è quello che non avrò. Quello che non ho è cosa nostra, quello che non ho è cosa vostra. L'unica risposta alla proposta di silenzio in casa nostra sarà sempre no. Quello che non ho è il capochinato soldato con mani sporche come fogne. Quello che non ho sono le mani giunte, unte di sangue, lacrime e menzogne. Quello che non ho sono le vostre bombe, scritture sacre, guerre, morti in diretta. Quello che non ho ogni giorno mi rammenta che quello che non ho non mi rispecchia. Quello che non ho, come di André, una cosa che non ho ma che vorrei per me, il suo talento assoluto solare che cerchiamo di onorare. Ma quello che ho è solo questo tributo. Quello che non ho è quello che non voglio. Quello che non voglio è quello che non avrò. Quello che non ho è quello che non voglio. Quello che non voglio è quello che non avrò. Quello che non ho è quello che non voglio. Quello che non voglio è quello che non avrò. Quello che non ho è quello che non voglio. Quello che non voglio è quello che non avrò.